632. Brigidini. È un dolce, o meglio, un trastullo speciale alla Toscana, ove trovasi a tutte le fiere e feste di campagna, e lo si vede cuocere in pubblico nelle forme da cialde. Uova numero 2, zucchero grammi 120, anaci grammi 10, sale una presa, farina quanto basta. Fatene una pasta piuttosto soda, lavoratela con le mani sulla spianatoia e formatene delle pallottole grosse quanto una piccola noce. Ponetele alla stiaccia nel ferro da cialde a una debita distanza l'una dall'altra e voltando di qua e di là il ferro sopra il fornello ardente con fiamma di legna, levatele quando avranno preso colore.